Benvenuti episodio 29. Sono super preparato adesso, che lo chiedo sempre prima a Jacopo, prima di cominciare a registrare, sono veramente bravo. E stasera parlano di un film che non ho visto e che però tutti voi avete visto. E parlano Jacopo, Andrea e Roberta, forse, se si riprende. Ciao. E parliamo di un film recente, molto recente, famoso, molto famoso, che ormai sto podcast sta diventando così mainstream che mi fa schifo. Non parlerò più. E film pluriacclamato alla mostra di Venezia, ha vinto Leone d'Oro? Sì, addirittura sì. Esatto. E avete già capito che parliamo di Joker, a parte che è nel titolo, quindi bravissimi. E parliamo di Joker, quindi un film che è uscito ieri, no, è uscito adesso, e prodotto dalla DC, purtroppo. No, non è vero, ma forse sì, sai, perché la Warner Bros. Alla fine la possiede, quindi non è prodotto da sì. DC, ma ha comunque il DC approved. C'è nell'intro del film? C'è praticamente il logo della Warner Brothers vecchio, un po' hipster. Quello tipo L'autore. Batman Begins. Ancora più vecchio, proprio anni 80, anni Ah, 70. Okay. E io faccio queste domande perché in realtà appunto il film non l'ho visto. E allora, il film, il regista è Todd Phillips, che ha fatto il colpaccio della vita con questo film. Prima in realtà aveva fatto dei film del cazzo, quindi è interessante anche vedere il rapporto, tra cui Una notte da leoni, tra cui Parto col folle, cioè proprio i film più brutti che io abbia mai visto, e poi è ovviamente tutto personale. Joker è interpretato da un acclamatissimo anche lui, americano lui, Joaquin, boh, vabbè. E Joaquin Phoenix, che è famoso perché è il fratello di River Phoenix. No, vabbè, ha fatto anche lui un sacco di film ed è comunque anche lui molto famoso come attore. E boh, chi altro c'è? C'è De Niro. E boh. C'è Mark Maron che fa la The stessa. Beats. Chi, scusa, Andrea? Come? The Beats. Chi? Zazie Beats. E chi cazzo è? Zazie Beats. Ma chi è? Attrice. Sì, ma cosa ha fatto? Ah, è nella serie Atlanta. È quella di Deadpool 1. Fa Domino. Fa Domino, cazzo. Cioè, The Beats. Vabbè, Andrea, stai caro. Che arrogante. Che sapientino. No, a catchphrase. The Beats. The Beats. E mi ha detto Andrea che c'è questo... C'è il tizio che faceva Il ritorno del Cavaliere Oscuro, no. Brett Cullen. Esatto. E basta, e non ho un cazzo da dire, perché vabbè, non l'ho visto, quindi vi lascio proprio parlare. Immagino che parli di Joker, ma da quello che mi dicono non parla di Joker, quindi... Pareri discordanti. Va bene. Andrea... Jacopo. Allora, Andrea ieri mi ha fatto, adesso fuori off no, siamo on air lo stesso, e ieri Andrea mi ha fatto un discorso di 2 ore su Joker, che io spero che oggi lo riporti tutto. No, non è vero, assolutamente. Allora, non è andata così. Diciamo che io e Andrea, allora io stranamente, Andrea un po' meno stranamente, non abbiamo un parere troppo positivo, Roberta un po' di più. Sì. Vogliamo cominciare da tre negativi e poi... È positivo? Ma volete, esatto, dirmi, sì, due robe sulla trama intanto? No, no, prima è positivo, allora scusa. Ah, ok, allora... la trama... Vabbè, faccio velocemente io per Roberta, poi per andiamo avanti. La trama essenzialmente è molto semplice, molto... Diciamo, la trama non è la parte centrale del film, però essenzialmente c'è questo uomo trentenne circa di nome Arthur, che diciamo che già dall'inizio del film è evidente che ha dei problemi mentali, psichiatrici, e tra l'altro appunto va dalla psicologa e si confronta un po' sui suoi cioè parla un po' dei suoi problemi, la sua settimana, e lavora come clown, diciamo, per feste o anche tipo per strada, per pubblicizzare dei locali, dei negozi, così. E viene, insomma, molto, cioè, viene o ignorato dalle persone intorno a lui per strada o nel suo palazzo, nel suo cerchio, oppure viene trattato male, insomma, viene picchiato per strada, viene tipo costantemente vessato o come dire, messo, non so, comunque viene continuamente vessato e abusato da realtà intorno a lui, abusato. E da lì, insomma, c'è un po' una discesa nella follia, diciamo una situazione degenera, mettiamola così. Non voglio spoilerare troppo, perché ci sono stati alcuni momenti in cui sono stato anche sorpreso da quanto la situazione fosse degenerata, mettiamola così. Boh, che dire, cioè, la trama in realtà è molto semplice, non è la parte più su cui hanno speso più tempo, diciamo. È un po' ispirata a The Killing Joke. Non ci credo. È un pochino. Solo perché si chiama Joker. Come? No. Tipo, c'è lui che si chiama Joker, questa è l'ispirazione. Esatto. No, diciamo alcuni dettagli che vedremo dopo, magari... è che non voglio spoilerare, però... Ma sti cazzi, tanto chi ascolta sta puntata l'ha visto, Joker. L'idea stessa di fare un film sulle origini di Joker viene un po' da quello. Diciamo, non è una cosa strana parlare delle origini di Joker, però concentrarsi in questo modo e rendere una cosa così introspettiva un po' viene da lì. A parte quello, ci sono veramente solo dei dettagli, dei riferimenti, ma non molto, insomma. Sono altri riferimenti ad altre graphic novel, ad altri fumetti, ma anche lì sono solo cenni. La cosa più, diciamo, che ha più influenzato questo film è Taxi Driver, quindi chi ha visto Taxi Driver ci vedrà molti riferimenti. Tra l'altro c'è anche Robert De Niro, quindi... Esatto. Roberta, vai. Ma allora, il mio parere su questo film è, direi, globalmente positivo, nel senso che... Cioè, è un film, a mio avviso, dalla trama abbastanza inconsistente, ma a me, come ormai sappiamo, ciò non urta in maniera così... Non mi urta quando vado al cinema a vedere una trama inconsistente. Quel che mi soddisfa è vedere lo scavo psicologico sul personaggio. E questo è, a mio avviso, come dire, un film che dice poco di Joker, ma dice molto della malattia mentale da una parte... e della correlazione tra la malattia mentale e l'humus nel quale essa si sviluppa, cioè proprio nel reticolato sociale che fa sì che alcune persone, diciamo, non messe nelle condizioni di essere prese in carico e di esprimere se stessi, poi degenerano e possono, come in maniera un pochino apocalittica, poi l'ascendente del film, addirittura mettere a ferro e fuoco una città. Scusa una cosa, ma l'humus si mangia? Cioè, è una cosa... Jacopo. Cosa vuol dire? Vuoi rubarmi il ruolo? Terreno. Ok. Il terreno, ok, ho capito. Ecco, ti ho detto... Scusate. Ci ho detto, ho apprezzato moltissimo, e questo mi ha fatto amare, sinceramente, questo film, l'interpretazione di Phoenix. Poi, ripeto, sul discorso trama e anche riferimento a Bruce Wayne alla fine del film, ora non voglio spiegare, però quello... Mi piace. È orrendo, cioè io l'avrei tolto, cioè poteva finire allora, almeno... Allora non chiamarlo Joker, però. No, infatti non si chiama Joker. Cioè, se non c'è uno che si chiama Alfred, non si può chiamare Joker. C'è uno che si chiama Alfred. Ed è Alfred il maggiordomo? Sì, ed è quello il problema. No, questo lo rende Joker. Senti, ma io ho una domanda sull'interpretazione di Non l'ho apprezzata onestamente, cioè avrei preferito che fosse finito prima, ma anche lì magari è una cosa mia, non è che non è che tutti siete d'accordo. Ma Salla, però scusa, Salla aveva una domanda. Sì, così mi riallaccio a quello che avevo detto ieri. Ah, tu hai detto l'interpretazione dei film è molto bella, va bene, ma è bella perché è uno che interpreta un disabile? O è bella perché è veramente bella? Mi spiego meglio. È esattamente così. Simple Jack. Ultimamente sembra che un attore, per essere bravo, debba avere una crisi psicotica. Ora, per l'amor di Dio, io sono d'accordo che uno può interpretare bene una crisi psicotica, ma secondo me il bell'attore si vede dalla bella interpretazione. Non posso fare l'esempio perché l'episodio che abbiamo registrato prima uscirà tra 6 mesi, però... E... cioè basta che l'attore interpreti un personaggio umano e questo, cioè anche se l'attore interpreta un personaggio umano ma lo fa molto bene, è comunque un buon attore. Se prendo per esempio DiCaprio e dicevo ieri con te Andrea di DiCaprio che sì. Allora DiCaprio, interpretazione bellissima The Wolf of Wall Street quando fa il drogato in crisi. Allora, ok, no, però questa bravo, è la tua visione dicotomica di questa cosa, dell'argomento. No, non sono d'accordo. Dicotomica. Che non è la psicosi la ragione sufficiente perché ci sia un'interpretazione d'eccellenza in questo caso. Esatto, la mia domanda è, in questo caso perché non l'ho visto il film? Mi chiedevo se dicono che è bravo perché appunto fa il disabile o dicono che è bravo perché è bravo? No, per me è bravo perché è bravo. Ah, okay. E ti dico che è bravo perché è bravo perché non solo l'interpretazione è a tutto tondo, cioè c'è una gestualità, un coinvolgimento del corpo, un muovere ogni cosa e il dire e sentire ogni cosa come se tu fossi veramente un malato mentale, ma non è questo, cioè il fatto che lui faccia il malato mentale a renderlo meritevole di, e che veramente si cala nella parte e riesce a trasmettere a te che guardi quel film quella sensazione di horror vacui, di angoscia, di dolore proprio che si trova a vivere una persona che ha una determinata patologia, che in quel momento però la società nel quale si trova non riesce per una serie di motivi sociali a prendere in carico e che porta poi alla nevrastenia. Io non penso che tutti sarebbero stati in grado di renderlo così, e pongo l'accento volutamente anche proprio sull'uso in toto del corpo, dei movimenti, della bocca, delle braccia. Non so, a me ha molto coinvolto, cioè io non riuscivo a staccare gli occhi dal proiettore, onestamente, e ho sentito, cioè, quelle emozioni, quelle sensazioni di paura, di angoscia, quasi di psicosi, cioè io me le sono portate, le ho vissute in quel momento e me le sono portate a casa e ho cominciato veramente a pensare, oh cavoli, però, cioè, la malattia mentale è qualcosa che esiste, che c'è, e dobbiamo starci attenti, cioè, anche, non so, sono quei film che ti porti a casa e ci pensi. E a me non capita spessissimo in realtà, cioè io ci ho pensato, poi era un momento anche un po' particolare, però la sera stessa ci ho pensato, poi il giorno dopo, non mi ha lasciato imperturbata, cioè mi ha turbata, ma mi ha turbata in senso positivo, nel senso che oltre ad avermi fatto per un momento esperire quella stessa sensazione proprio di totale desolazione che il protagonista prova, perché poi questo è il punto, lui si sente solo, si sente una persona... malata e incompresa e assolutamente bisognosa di qualsivoglia forma di affetto che non riesce a ricevere. A quel punto decide, come dire, di trasformare questo suo malessere, livore in rivolta e di far sì che il suo male alla fine diventi, si faccia interprete di un male collettivo e possa poi mettere a ferro e a fuoco la città, come se il problema fosse quello, e cioè che Gotham è in mano a persone che hanno la ricchezza in poche mani e se ne fregano di chi sta male. Ecco. Quindi per questo io penso che il film meriti. Poi, ripeto, sulla trama in sé io non ho molto da dire, non ci sono delle cose che non mi piacciono. Anche la relazione, cioè è un film molto protagonistocentrico, cioè la relazione di lui con il resto dei personaggi, sì, un minimo c'è, ma insomma a mio avviso non è... fa veramente la parte del leone, è un film su di lui, cioè poteva fare questo film da solo. Vabbè, Phoenix. Si chiama Joker, sì, ci sta. Cioè, sono tutti, tutto il resto è un collaterale, sì, sì, sì. Tu quello che ti porti a casa è l'immagine, il movimento, le parole, la paura di questa persona. E proprio, ed è lampante il nesso tra sto male perché sono malato e forse lo so, e però nessuno mi aiuta, e quindi io questo male lo veicolo non in un qualcosa di positivo, ma in un male maggiore. Poi anche lì c'è tutto il discorso della questione della madre, nel senso che nel film poi viene fuori che la madre di cui Arthur si occupa aveva abusato di lui in passato. Cioè, c'è anche questo. Questo è un magari film, però comunque era uno spoiler, ma andiamo avanti. Ma l'hanno già visto chi ascolta questa puntata, no? Secondo non me è sì. Detto. Però, cioè, io non l'ho visto, però vabbè, secondo me sì. Cioè, comunque sti cazzi, però. Cioè, sono un pessimo esempio, però secondo me sì, l'hanno già visto. L'hanno visto tutti i Joker. Sì, no, vabbè, continua, cioè non, sì. Non è colpa di Jacopo, è lui. Colpa mia. No, ecco, va, volendo riassumere ecco un po'. Va bene, invece i bambini a cui non è piaciuto? Il film è sfalsato, nel senso che tu non capisci cosa sia film, trama e cosa sia nella sua testa, cioè se non ricordo male ci sono proprio degli sbalzi temporali in cui c'è cioè dei piani diversi, c'è cioè la testa di Joker e il piano narrante. Forse anche questo è un ci po' uno spoiler, non lo so. No? No, non so no. Se è uno spoiler. Oh. No, vabbè, dicevo, invece i bambini che non l'hanno visto. No, che scusa, che non gli è piaciuto. Che cosa, perché non gli è piaciuto? Cosa non gli è piaciuto? Vai Andrea, prima tu. No, vabbè. Prima una cosa, tu l'hai visto in italiano ora? Io l'ho doppiato, l'ho visto in inglese. Ok. Cioè l'ho visto in inglese con i sottotitoli italiani. Ah, ok. Quindi Andrea, tu sei l'unico che l'ha visto in italiano. Infatti, no, vabbè, io sì, l'ho visto al cinema qui in italiano e probabilmente me lo rivedrò in lingua originale perché vabbè magari so, in effetti io sono stata contenta di averlo visto in lingua perché secondo me qualcosa si perde. Sì no, sicuramente, cioè anche doppiato secondo me lui rende bene, cioè il doppiatore di Phoenix è Giannini, cioè nel senso comunque cioè esce bene, cioè non è che, ma non mi sono piaciute alcune cose tipo esce come Heath Ledger. Esattamente. non mi sono piaciute alcune cose tipo quando cioè si vedono le scene dove lui scrive sul diario, il diario, la sua giornata, o scrive appunti sulle battute così. Doppiato anche cioè tutto quello che vedi nel diario è scritto in italiano e c'è la scena anche proprio che lui sta scrivendo, c'è una mano che scrive in italiano ed è bruttissima quella cosa, è bruttissima, che, strano, che scelta strana, no è orribile, cioè è proprio pintissimo, perché poi cioè, poco dopo c'è la scena della cartella clinica della madre, che ovviamente è tutto in inglese, quindi è proprio fatto una cosa, una porcata quello per me. Ma che strano. Chissà come mai hanno pensato di fare sta cosa qua. Non lo so. In realtà, in alcuni film ha senso, tipo su film Pixar, cioè film fatti in computer grafica, semplicemente devi cambiare un valore e fai l'immagine con le scritte in italiano, non è un problema. Anzi, forse è anche meglio per i bambini, che così magari ci capiscono qualcosa se sanno leggere. Qui ok, ma proprio lui con la mano, cioè proprio la mano che scrive, cioè proprio finta, proprio brutta. Non lo so, è strano. Tra l'altro la mano di chi è? Ah, boh. Mano fantasma. Ma invece, diciamo, perché non ti è piaciuto il film, a parte questa cosa italiana brutta? Ma io non ho detto che il film non mi è piaciuto. Però non ti è piaciuto. Però non ti è piaciuto. Io ho detto, non mi è piaciuto in quanto Joker. Perché non è Ah, ok, Joker. non è Joker. Va bene, come film? Quindi. Quindi il film non mi è piaciuto. Ma no, vaffanculo. Cioè, secondo me sono proprio due simboli diversi, cioè due Joker diversi. Il Joker di Nolan è un'entità quasi senza passato, se vogliamo. Cioè, Ma quello è normale, cioè nella mitologia di No, non Joker, Joker è questo. sempre diverso a seconda del fumettista che lo Sì, scrive. infatti, ci sono E mille quello versioni. ci sta. È che lui non c'ha proprio valore come Joker. Cioè, se lui mettevi qualsiasi altra persona, qualsiasi altro personaggio, il film riusciva lo stesso. Cioè, potevi non chiamarlo Joker il film. Questo che non parlo, cioè, questo Sì. che non mi è piaciuto. Lui non è caratterizzato. Cioè, o meglio, è caratterizzato ma non come Joker. Non come Joker, no. E qui si dà Quindi, un. non lo Mentre. so. Cioè, io ho visto Batman, no? Quale? Come voi immagino di Christopher Nolan. Ah, ok. E non ho una grande cultura, non so neanche se ce ne siano. Sì, immagino ce ne siano altri. Sì. Sì. Un bel po'. Purtroppo Nolan ne ha fatte anche Comunque. tre che fanno cagare. Quasi tutti, quindi quale hai visto? Io pure, no, ne ho visti un paio, non mi ricordo quali, forse gli ultimi due. Comunque, l'idea che io avevo era quello di un Joker un po' che era è come se incarnasse una forza anarchica, però in qualche modo senza Sì, beh, passato. quello è il Joker di Nolan, è così, è il simbolo dell'anarchia. È il simbolo dell'anarchia, Ma senza però, cioè quasi un anarchico che in quanto anarchico agisce per amore del caos, senza sì. motivazioni concrete. Ma la cosa bella appunto Qui il di discorso è Joker è totalmente questo. diverso. Sì. Però è Joker anche lui. Sociale. Per esempio, Joker di. Come cazzo si chiama? Quello di. Myers, no. Jack Nicholson. Sì. È un altro Joker, non è anarchico. Cioè, Sì, ognuno assolutamente sì. che mette in scena Joker o disegna Joker gli dà il valore che vuole, però rimanendo sempre nel contesto del personaggio, che comunque non è sano di mente. Anche Jared Leto è un Joker un po' diverso. No, è Jared Leto che lo fa Joker. O no? In quello in Suicide Squad. Sì, Io insomma che non lo lui so. sembra Poi. un anarchico, no? No, Cioè lì anche sembra un'anarchia. no, è uno che non sa recitare. È un Joker che non sa recitare. Cattiveria, cazzo. È un Joker che. Sociale, diciamolo così. Di proprio ambienti malsani, Sì, di però. rabbia sociale che cresce, non è la prima volta che viene messo su pellicola. Che può piacere o no, questo lo capisco adesso il discorso di Andrea, dice ok, è anche una bella interpretazione, è anche un bel film, però non chiamatelo Joker perché potevamo metterci qualunque altra persona. Ok, questo è vero, cioè non posso dire no, o meglio, è una spiegazione che viene data di un Joker, però è una delle possibili. E poteva anche non essere lui. Cioè, da quello che ho capito, da quello che dice Andrea, è che Joker non dimostra di essere Joker. Cioè, è uno che si maschera da clown, ambientato in Gotham City, cioè con la mod che è Sì, Gotham City. esatto, è questo. Sì. A Però me poi. questa cosa non dà troppo fastidio. Perché mi beo come dire, delle emozioni e sì, proprio del messaggio che mi lascia il film, però è vero, forse io mi fermo, mi sono fermata da questo punto di vista a un livello più superficiale e non ci ho neanche pensato a questa cosa, sì, ma in effetti, ma Joker. Ma probabilmente dipende anche cosa vuoi vedere da un film, cioè Sì, se a sì. te non frega una sega dei supereroi, ci sta che comunque, anche se non è Joker, vabbè, bella Anzi, a me ha perché quasi urtato quella roba di Bruce Wayne, quasi Bruce Wayne, Wayne. Bruce Wayne, alla fine, perché francamente l'ho interpretato a maggior ragione come un tentativo anche un po' posticcio di porre una connessione che però comunque non c'era stata per tutto il resto del film in qualche modo, quindi veramente lì ha, secondo me, ha cappellato. Io l'avrei tolto, cioè a quel punto o fai un film totalmente coerente oppure almeno in cui ti svincoli e prendi come pretesto Joker, lascia perdere il finale così. In realtà su questo mi sono d'accordo. Per accontentare i fan, ecco. Su questo sono d'accordo in realtà, cioè la cosa che più mi ha dato fastidio di questo film forse è che nel momento in cui hai deciso di fare un film tutto su Joker, di farlo concentrato a livello sia visivo che di, diciamo, di sviluppo su tutto sul personaggio, c'era poco senso metterlo in relazione con Bruce Wayne, con Batman, perché anche se il personaggio di Joker in teoria è proprio in diretta connessione con Batman come filosofia, come creazione, qui non c'entrava assolutamente un cazzo. Cioè hanno voluto fare delle connessioni che potevano anche non esserci. Cioè il film sarebbe stato magari più concentrato, più comprensibile, più fatto bene, secondo me, senza queste connessioni. Sì. Però c'è da dire che questo, diciamo, allora, la mia prima impressione del film non è stata bella, cioè sono uscito abbastanza deluso, però comunque lì c'è Phoenix bravo, eccetera. Però poi ho letto una specie di analisi online che parlava del fatto che probabilmente non solamente una parte del film è, diciamo, è frutto dell'immaginazione di Joker, per continuare con lo spoiler, ma è tutto molto più metaforico quello che succede nel film, ancora di più di quanto sembra già, che già è abbastanza surreale, cioè diventa abbastanza surreale, a un certo punto diventa abbastanza quasi linciano. Esatto. C'è una scena in cui sembra proprio di stare quasi in un film di Lynch, per quanto sembra onirica. Non so, cioè molto... Tipo Mandy, insomma. No. Please, Mandy, lascia stare. Quindi, insomma, non mi ha fatto impazzire come hanno... Se, cioè, mi vuoi dare se mi vuoi dare il link, poi magari lo linkiamo anche nella puntata. Cioè il link dell'articolo. Dell'articolo. Della teoria, sì, se lo ritrovo. Sì, sì, sì. Diciamo che c'erano dei dettagli che lasciavano intendere che la maggior parte di quello che si vede sullo schermo non è quello che è successo davvero, ma a una prima visione molti, diciamo, di quelli che l'hanno visto, ho parlato anche con Edoardo, neanche avevano troppo afferrato al 100% una delle parti più, diciamo, ovvie, diciamo, più che viene spiegata meglio, mettiamola così, che viene proprio spiegata direttamente dalle scene, dal montaggio. E questo podcast si dissocia da considerare Edoardo stupido. Invece no, vabbè, può capitare che uno si distrae. Stiamo parlando di questo? Sì, okay. Diciamo che può capitare, secondo me, poi alla fine abbiamo capito che è stato questo, può capitare che uno si distrae un attimo, tipo 5 secondi, e si perde un dettaglio importante, ma non lo so, vabbè. Comunque bellissima. Vabbè, ma non solo le scene con lei, eh? No, ci sono anche altre. Ci sono anche altre scene, certo. Sì, sì. Però le altre scene è ancora più difficile carpire. Sì, sì, devi notarle bene. Boh, sì. Comunque mi è piaciuta molto la scena nello studio. Però ho il sospetto che molti la interpreteranno, cioè l'hanno interpretata male, secondo me. Cioè non è tanto... Mi è piaciuto questo film non tanto per Joker, perché Joker non c'è, quanto per come la società reagirebbe a questo Joker. cioè proprio la città, i media, che è una cosa che Beh, una diciamo sorta di un po'. provocazione, no? Esatto, è una provocazione Sì. molto forte che mi ricorda molto in The Dark Knight Returns. C'è una scena molto simile a quella dello studio, in cui c'è, vabbè, diciamo nel fumetto c'è questo Joker che va in questo programma televisivo, un Joker un po', cioè, abbastanza vecchio, e niente, cioè, mi è piaciuto il parallelo, mi è piaciuto il riferimento, ma anche la provocazione che fa questo film. E secondo me per quello gli hanno dato un premio, perché è abbastanza topico del sentimento, diciamo, vittimista di molti troll online, diciamo, molti alt-writers. È un po' un leone politico, secondo me, Io però questo. quasi, cioè, dalle scene della fine sembra quasi che, cioè, lo giustifica a fare quello che fa, però... non lo E so. questo. In realtà, colgo l'occasione, in realtà a me l'ultima parte del film in generale non mi ha troppo soddisfatta, cioè il fatto che poi sia lui a vincere in qualche modo, ad avere la meglio, a dar vita a questa banda di diseredati che mette a ferro e a fuoco la città, a me non è piaciuto, cioè, ripeto, avrei fatto fermare il film anche prima di quella scena, non per spoilerare, però Secondo non... me non è quello che è successo. Cioè, alla fine, Oh, è un suo secondo me, una elaborato. cosa, esatto, una cosa bella di questo film è che ti lascia un po' in La libera. sospeso, esatto, l'interpretazione di quello che è successo e di quello che vuole dire, ma è abbastanza in dubbio il fatto che, Ah, ho capito, in sì. dubbio è una parola unica, ha fatto un po' la parola sapio, senza dubbio una critica a persone che guarderanno questo film pensando: oh, che bello, finalmente un film non politico su un eroe degli emarginati, quando in realtà va un po' contro quest'idea del vittimismo, questo modo di trattare gli emarginati, che non deriva da una cattiveria, ma semplicemente da una politica. E quindi, cioè, in realtà, paradossalmente, è un film molto politico, nonostante sia apparentemente, non lo sia, insomma. L'ultima parte, come forse hai ragione, non ci avevo mai pensato, in realtà appena visto il film, sia in realtà non reale, quindi non distopico, ma sia frutto della mente di Joker, cioè a quel punto a maggior ragione diventa un film politico, no? Esatto, e tra l'altro anche quello si ricollega un po', secondo me, anche in maniera un po' paracula a The Killing Joke, perché in The Killing Joke e anche in altre storie c'è sempre il dubbio su quali siano davvero le origini di Joker, un po' come Heath Ledger, che ogni volta dà una storia diversa di come si è fatto le cicatrici in The Dark Knight, è un po' ripresa ovunque questa cosa. È un po' paracula in questo, però in realtà ci può stare. Ok, dai. Parte del fascino. Ok. E direi che possiamo Dello chiudere. sketch finale che non ci trova un cavolo con tutto il resto. Lo sketch finale è bellissimo. Andrea, mettiti a cantare la canzoncina di Joker che canta alla fine di Arkham City, come Il su. miglior Joker è Mark Hamill. Esatto, sempre lui. Eccola. Voglio dire. La voglia di. Comunque avevamo una scommessa su Joker, raga. Ah sì? Ah, è Avevamo vero. fatto una scommessa su a che minuto del film avrebbero ri rivelato il titolo. Cioè, qualcuno avrebbe detto il titolo. Il problema è che nel trailer già c'era, e quindi lo sapevamo che sarebbe arrivato. Il problema è che non è quello il momento. C'è cioè, un momento prima, in cui praticamente un presentatore dice la parola Joker ed è il primo in cui è una parola significativa, È e l'unico quindi momento. Ah no, cioè sì. no, poi viene ripetuto dopo, però diciamo non è lo stesso momento che c'è nel trailer, se no avrebbe vinto Salla, penso. No. Purtroppo, esatto, il momento era il minuto 58 e vince Roberta, che ha detto 52, quindi andiamo a 3 per gli ospiti più Roberta, 6 Salla, 6 Andrea e 2 io. Quanto fai cagare, Jack? faccio cagare. Vabbè, però a volte non partecipo, cazzo. però faccio cagare pure quando partecipo. E invece Maleficent 2 ho vinto io. Box office 157 milioni, io ho detto 110, ma ero il più alto, quindi... Che schifo. Andate a fanculo tutti quanti. Quindi Andrea Jacopo. Bravo, vai a vedere Angelina Jolie. Pezzo di merda. Esatto. Andate di più. Ok, fatto. Niente, dai. Ci vediamo settimana prossima. E ringrazio i miei ospiti per aver parlato al posto mio e, e per avermi convinto a fare questa puntata. E niente, dai. Dai, Sala, ci vediamo. Aspetta, ma dopo tutto questo guarderai Joker o no? No. Perfetto. Dai. Un altro podcast di successo. E non guarderò neanche il film della prossima settimana. E... Merda. Merda per te, Sala, vaffanculo. E niente, dai. E ciao. Why so serious? Andate a vedere la serie animata di Batman.